sono andato in confusione. Mi ha certo professore mi ha regalato, mi ha omaggiato un suo lavoro su date a Cesare e date a Dio. Sono spaventato. Dov'è qui il filone per capirci qualcosa? Poi ha detto, sta buono. Dietro ci sta un gozzoviglio di culture e lasciamole là. Io vorrei puntare però sulla risposta di Gesù, perché fa intravedere un modo diverso di considerare il convivere tra gli uomini. Questo tendere tutti insieme al bene comune. Questo sentirsi cittadini volontari, se volete, nel senso di responsabili. Ma chi è? Intanto in che contesto nasce l'episodio? La domanda è posta perché esistevano due posizioni, naturalmente in conflitto tra loro, i romani e gli erodiadi, gli erodiani. Questi rivendicavano il potere a Cesare come potere sacro, voce di Dio. E questo coinvolgeva anche le coscienze, tentazione o prassi o atteggiamenti anche attuali, se ci pensiamo bene. Politica che vuole coinvolgere tutto. Comunque questa era una posizione. Dall'altra parte c'erano i cosiddetti teocratici, cioè che vendicavano tutto il potere a Dio, quindi nessuna autonomia nelle scelte umane, il conflitto tra la mia coscienza e Dio. Questi avevano adottato una forma di rifiuto del pagamento della tassa imposta dai romani. Allora la domanda posta dai farisei era quindi una bella trappola che pensavano. Gesù mette una discriminante straordinariamente originale e creativa. Da una parte la nostra vita, la nostra storia calata nel, tra virgolette, provvisorio. Tutto quello che siamo e facciamo è provvisorio. E c'è sotto l'emblema di Cesare. Dall'altra una condizione della nostra vita sempre aperta al futuro, il cui principio ispiratore è la coscienza, la mia, la tua coscienza, che supera i confini del potere dei Cesari. Cioè, ci sono momenti, ci sono esperienze in cui gli uomini, superando il provvisorio, superando l'orizzonte del vivere storico, compiono le loro scelte, come dire, le scelte tutelate da Dio. Sono tutelate da Dio. Così il linguaggio più nostro si potrebbe dire, cioè tradotto un po'. C'è l'ambito politico del come gli uomini cittadini si organizzano per vivere la loro fede, la loro vita. C'è l'ambito della coscienza. Attenzione, diversi, ma non separabili, se no c'è il rischio della doppia morale, la morale di casa mia, della mia testa, del mio cuore, del mio agire e quanto sono forte. Il discorso un po' delle maschere. Questi sono i due spazi, politico e coscienza individuale, i due spazi dentro i quali possiamo rileggere questo conflitto di Gesù con i suoi interlocutori. Cioè, vuol riconoscere che esiste un ambito del politico del quale l'uomo è responsabile. E qui si aprirebbe un discorso immenso sul potere del denaro, dell'economia, della giustizia, dell'ingiustizia, delle scelte condizionate, sulle tasse pagate, non pagate, le spese degli armamenti. E le donne del Kenya o del Bangladesh ci fanno sapere cosa può significare farsi complici di uno sfruttamento. Faccio due considerazioni. Quando dite la piede adesso basta, alzate la mano e ferma. Due considerazioni che a me premono. La prima è suggerita appunto dalla lettura fatta del profeta Isaia, che non è una cosa da poco. Il termine Messia è attribuito al re dei persiani Ciro. Io ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca. Era fuori dal recinto di Israele, dal circuito, ma non so se conosceva un po' della cultura ebraica, eppure era il Messia di Dio. Probabilmente non conosceva un granché, eppure era il Messia di Dio. Cosa vuol dire questo? Che l'attività, l'autonomia responsabile dell'uomo, significa, in rapporto al bene che ne viene agli uomini cittadini, l'attività, l'autonomia responsabile è se il mio agire politico porta il bene ai cittadini. Quindi per sapere se un uomo vivente è il Messia di Dio, non guardo se porta le insegne cristiane, la croce sulle corone regali, se fa stampare il nome di Dio sulle monete, o se giuro sulla Bibbia i giorni delle incoronazioni. Deve, questo è vivente Messia di Dio, attentamente vedere se promuove la crescita dell'uomo a partire dal più debole. Questo è il regno di Dio. per cui è lecito e magari doveroso anche versare il contributo a Cesare. È un po' maliziosa questa mia affermazione, perché tutte queste attività del fare il bene, le beneficenze, non siamo autonomi, non abbiamo bisogno del politico. È malizioso molto, perché il politico, cioè l'agire politico, è quello che è responsabile di tutti. Poi se lui non ci arriva, c'è chi si dà da fare. Ma se chi dà da fare non coinvolge quelli del politico, un po' di incenso può far profumare. Va bene. Non so se avete avuto modo già di spiare, poi arriverà il documento col discorso del Papa ieri, fa una filzetta di tentazioni dove queste robe qui esplodono. È furbo quell'uomo lì, perché è intelligente. Gli ha lasciati parlare, ma poi è arrivato. Va bene. La seconda indicazione, date a Dio. Sembra che mi faccia meno problema. Date a Dio. Investe le decisioni della coscienza e la sua capacità di pronunciarsi in modo libero davanti alle scelte fondamentali della vita e anche alla coscienza dei fratelli. La coscienza, illuminata dalla parola di Dio, dalla testimonianza di chi ha autorevolezza e che esercita il servizio del potere, anche dalla comunità che va ascoltata, sentita, confrontata, anche dagli interrogativi che vengono posti da tutte le parti. Il luogo in cui noi, coscienza, ci riconosciamo come immagini di Dio. Non è quando agiamo politicamente. È quando facciamo le scelte, che poi ci daranno anche sull'agire politico. Ma non è l'agire politico in sé. Qualcuno è stufo, quindi adesso io chiudo. Lascio la vostra intelligenza e saggia osservazione e informazione a riflettere sull'attualità di questo conflitto posto dagli interrogatori di Gesù e delle risposte di Gesù. Credo che l'unico privilegio che ci viene dalla risposta di Gesù sia proprio quello di poter professare apertamente le nostre convinzioni illuminate dalla parola di Dio, dalla comunità dei credenti in Cristo, ma aggiungo, riconoscendo agli altri, ai diversi da noi, lo stesso diritto. Là dove non si lascia spazio alla coscienza libera da condizionamenti, tutto può essere corrotto, anche la preghiera. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo.